emozioni, nozioni di sensazioni che non mi mollano, mi cullano di notte in un pensiero mentre tutto dorme. Ieri l'estate era più viva, i tuoi occhi un po' più chiari, un po' più strette le mie forme. Inoltre era diverso quell'approccio con la vita, dentro sabati vissuti al massimo una birra tamponava una ferita. Io sempre schiva ma un sorriso mi ha scaldato, è entrato e non mi hai detto che più non usciva. Viva un'altra frase su di un post, sorrido pure piango non lo so, son felice ma anche triste un po'. Guardo la pioggia e il sole, vorrei si incontrassero e si amassero, un arcobaleno, prova di un amore massimo. Ma mi rilasso sotto un frasino, ricordo del ricordo, ti ricorda dentro un attimo. Scatole da scarpe contengono i ritagli custoditi nel percorso della vita in parte. Sono ancora la bambina un po' insicura che si maschera di nero gli occhi e finge che non ha paura. Cerco una cura ma non c'è e non so qual è, soltanto quando dormo cessano tutti i perché. Quante notti stesi là a sorprenderci del mondo e del ricordo, ci mettiamo un po' di tutto, un po' di vero, un po' di falso, ma alla fine lo si sgama il trucco. E neanche un sogno è veritiero, poiché è frutto del pensiero, l'uomo tende per davvero a cancellare il brutto. Ma dentro al naso, profumo della sabbia, in giro sempre in banda, col fumo che ci scalda in questa landa. In tasca un sogno e una cartina, con la faccia da cretina, col manubrio che mi sbanda. E tu, batte il cuore, seguo il tempo, ascolto, tu il silenzio, scappo e poi mi pento. Non mi sfiorare il mento, senza sentimento, qual è il tuo intento? Non c'è risposta, sei rimasto dentro. E quante notti in fuga da me stessa, a staccare la testa, puoi uscirne più perplessa, più mesta, perché un problema in fondo resta. Ma a volte basta un po' di sole, va via la tempesta. Basta un po' di sole, va via la tempesta. Grazie a chi c'era dato un po' di luce a questa mia faccia depressa. Quante notti stesi là tra campagne fuori città, sognavamo un'altra.